24 mattino. 2015, dobbiamo abituarci anche a pronunciare questo nome perché si è voltata pagina. Allora ancora buongiorno da Irene Zerbini per questi speciali natalizi e festivi di 24 mattino. Parleremo dell'anomalia greca, come è stata ribattezzata, naturalmente della possibilità di apertura al dialogo con Siriza. Per i vertici europei la Grecia può essere ancora una fonte di contagio? O si è perso il pessimismo che due anni fa gravava su una situazione definita appunto anomala, ma sempre più cronicizzata? Ne parleremo comunque alle 8:15 di Grecia e cosa comporteranno queste elezioni greche per il resto d'Europa. Parleremo anche di una fotografia italiana, la fotografia delle famiglie, proprio così, cambiano in continuazione, crescono infatti nuclei ribattezzati monopersonali, cioè di persone che vivono sole. Ci sono quelle che una famiglia non l'hanno costituita mai e ci sono coloro che escono da famiglie disgregate. C'è poi una realtà in crescita che è quella delle famiglie allargate. Come ci si deve comportare col figlio, coi figli della compagna, del nuovo marito, della nuova moglie? Quali errori possono evitare grandi sofferenze? Questo il tema trattato dalle 8:30 in 24 mattino e chiederemo anche a voi di partecipare al 349-238-6666 per suggerirci un nuovo nome per quello ormai troppo antico e anche pieno di connotazioni negative legate al nuovo partner. Dobbiamo continuare a chiamarli patrigni, matrigne, fratellastri, sorellastre? Voi cosa proponete per queste nuove relazioni che si vanno affermando sempre di più in Italia? Ma tutto ciò dopo la rassegna stampa, per cui saluto, ben ritrovata, buon anno, Giulia Crivelli del Sole 24 Ore. Buongiorno Giulia. Buongiorno e buon anno a te e a tutti gli ascoltatori. Di cosa parlano oggi i giornali? Ma moltissimo ancora del discorso di Napolitano, perché ieri, come sappiamo, i giornali non erano edicola e quindi abbiamo questo ritardo irrimediabile, ma tutti considerano irrinunciabile i commenti al discorso di Napolitano di Capodanno. E poi naturalmente la vicenda delle due ragazze e del video con cui hanno fatto un appello le ragazze rapite in Siria perché appunto il governo, l'Italia, faccia il possibile per riportarle a casa. Ti seguiremo con molta attenzione, Giulia, ci ritroviamo prima del GR. Certo, e dicevamo appunto dalle prime pagine c'è questo inevitabile problema di dover colmare questo vuoto che c'è stato ieri. Eravamo senza giornali perché anche qui, come avevo già detto, c'è un po' questa anomalia del contratto nazionale dei giornalisti, che noi giornalisti della carta stampata non lavoriamo il 31 di dicembre, a differenza dei nostri colleghi della radio e della televisione, come ben sanno gli ascoltatori di Radio 24, e quindi i giornali ieri non erano in edicola. Inevitabilmente quindi si è persa l'occasione di commentare il discorso del presidente Giorgio Napolitano, considerato particolarmente importante visto che ha confermato nel discorso che darà presto le dimissioni. Allora il Corriere della Sera titola: Napolitano appello all'Italia. Segnalo tra l'altro che sono quasi tutti i giornali, compreso il Corriere della Sera, compreso il Sole 24 Ore e la Repubblica, pubblicano il discorso integralmente per chi o non l'avesse ascoltato volesse rileggerlo. Il commento è di Marzio Breda, che è il quirinalista del Corriere della Sera, e si intitola: ho voluto tenere a bada i sentimenti anche negativi. Vi segnalo poi dalla prima pagina del Corriere la fotonotizia, come dicevamo, di Greta Remelli e Vanessa Marzullo, due ragazze molto giovani, 20 e 21 anni. È un video che è stato messo su YouTube. Sono cooperanti italiane, sono due ragazze rapite 5 mesi fa in Siria. Questo video è la prova che sono vive, ma è anche la prova, perché sono state velate per poter girare questo video, che sono appunto nelle mani dei fondamentalisti, e l'appello è: fate qualcosa per riportarci a casa. Qui il commento è di Guido Olimpio: lo strano video senza loghi, il mistero della data, perché Vanessa Marzullo, una delle due ragazze, teneva in mano un cartello con scritto 17-12, quindi appunto il video sarebbe di qualche settimana fa. Dalla prima pagina della Repubblica stessa identica fotonotizia, il titolo: il filmato shock delle italiane rapite, e con due commenti, uno di Carlo Bonini, il retroscena con La rete della trattativa e l'altra l'analisi di Adriano Sofri, Velo nero e occhi bassi. Ma il titolo principale accanto alla fotonotizia, anche in questo caso, è dedicato al presidente Napolitano. L'addio di Napolitano apre la corsa al Colle e Renzi pare sia appunto favorevole a questa soluzione di un tecnico. Sapete che è un po' sarà sicuramente un'elezione che riserverà molte sorprese, però un po' il tema è: ci vuole un politico, quindi un tecnico, oppure un personaggio di grande prestigio, levatura culturale, presunta levatura morale? Allora si sono fatti vari nomi, da Riccardo Muti, direttore d'orchestra, Renzo Piano, già senatore a vita, insomma vedremo. Il punto di Stefano Folli: il presidente vuole salvare la diarchia. Ma vi segnalo, e ne leggeremo un pezzo se ci sarà tempo più tardi, un interessante articolo di Federico Rampini, corrispondente da New York della Repubblica, che ci racconta come il presidente Obama abbia chiamato il vecchio Henry Kissinger, grande deus ex machina della diplomazia americana, di entrambi, tra l'altro di entrambi gli schieramenti, perché ha svolto un ruolo importante sia durante presidenze democratiche che durante presidenze repubblicane, anche se lui è sicuramente più vicino come idee, come posizioni a quelle dei repubblicani. E l'appello di Obama pare sia stato: devi provare tu a parlare con Putin. Ma veniamo al Sole 24 Ore, che ha certo una, come vi dicevo, riporta a sua volta il discorso integrale di Giorgio Napolitano, e naturalmente ha molti commenti e c'è un titolo in prima pagina, però soprattutto il Sole 24 Ore si concentra, per la sua natura di quotidiano economico, alle novità fiscali, e quindi il titolo: stop a nuove tasse sulla benzina e per gli sfratti nessuna proroga. Questa è l'analisi di quel decreto mille proroghe che è appena entrato in vigore e sterilizza, ad esempio ci spiega il Sole 24 Ore, poi diffusamente a pagine 2 e 3, sterilizza il previsto aumento delle accise sulla benzina. I 671 milioni attesi per l'erario verranno garantiti dagli incassi della voluntary disclosure, cioè per voluntary disclosure si intende quando volontariamente si rivelano alcune parti del proprio reddito, sia che si sia persone fisiche o aziende, per appunto magari sanare situazioni irregolari. Resta fuori dal mille proroghe il blocco degli sfratti, quindi qui c'è un grosso problema di cui parlano molti giornali, perché ci sono molte persone che appunto sono a rischio sfratto. Confermati per un altro anno i contratti a termine nelle province, e qui, se ci fosse Alessandro Milan, parleremmo della ennesima settimana decisiva o non decisiva per l'abolizione delle province. Ma è chiaro che se c'è un anno in più per i contratti a termine nelle province, l'abolizione la vediamo appunto allontanarsi. Poi c'è un altro titolo, un altro tema molto interessante, che è quello dei BTP. Isabella Buffacchi e Cristian Martino ci spiegano che ci sono 200 miliardi di BTP in scadenza, e l'ammontare di titoli in maturazione nel 2015 in Italia è il più elevato tra i paesi europei. C'è poi un commento di Donato Masciandaro: vecchio zavorre, nuova vigilanza, che riguarda tutta la questione appunto della vigilanza, quindi banca e Banca Europa e BCE, Banca Centrale Europea. Ma vi segnalo che da oggi inizia la collaborazione di Luca Ricolfi, ex editorialista della Stampa, ora collaboratore del nostro giornale. Il primo articolo che pubblica proprio oggi si intitola "Le due parti in commedia del governo Renzi e il partito che non c'è". Il tema è quello molto dibattuto e mai risolto: ma Renzi è di destra o di sinistra? O meglio, le politiche messe in campo dal governo Renzi sono di destra o di sinistra? E l'articolo inizia in copertina e continua a pagina 18. La copertina del Messaggero, anche in questo caso dedicata a Napolitano, ecco perché lascio, e anche in questo caso c'è la fotonotizia delle due cooperanti rapite in Siria con questo appello lanciato in un video. Ma il Messaggero è anche l'unico quotidiano che mette in copertina, poi la storia la trovate anche sugli altri giornali, ma non con questo rilievo, comprensibilmente, e mette in copertina la notizia degli 8 vigili su 10 assenti a Capodanno. Tutto in una notte, quella di Capodanno, la più delicata per la sicurezza dei cittadini, messa a rischio da un vero e proprio agguato corporativo, così lo definisce Antonio Galdo. I vigili romani hanno iniziato l'anno nel modo peggiore, mostrando il volto di una categoria refrattaria a qualsiasi cambiamento e pronta a utilizzare ogni strumento per difendere i privilegi. Per avere conferma su una forma di protesta strisciante che travalica i limiti del buonsenso, prima che della corretta dialettica tra le parti, basta valutare le surreali motivazioni degli assenteisti. L'articolo continua poi, il commento continua a pagina 20, c'è cioè la cronaca pagina 14, tra queste assurde motivazioni, il fatto di dover donare sangue la notte di Capodanno, malattie naturalmente di tutti i generi. E il risultato è appunto che in una notte in cui sicuramente i vigili possono avere un ruolo molto importante, 8 su 10 a Roma erano assenti tra virgolette giustificati. La prima pagina della Stampa, che in questo caso stessa fotonotizia, la supplica delle ragazze, aiuto, siamo in pericolo, e poi un'interessante analisi di Maurizio Molinari, chi gestisce il business del ricatto. 65 milioni di dollari, questo l'ammontare delle entrate registrate dallo Stato Islamico, il famigerato ISIS, nell'anno appena trascorso grazie a sequestri in Siria ed Iraq. E quindi il tema del quando lo Stato Islamico o per esempio altri fondamentalisti islamici in Yemen rapiscono dei turisti o dei cooperanti o delle persone comuni e chiedono un riscatto, che cosa fare sapendo che comunque questi soldi poi tornano a finanziare in una specie di circolo vizioso gli stessi terroristi che hanno portato avanti il rapimento. E Maurizio Molinari ci spiega numeri a mano di che numeri stiamo parlando. Naturalmente c'è un titolo anche su Napolitano, riforme e corruzione, appello di Napolitano, mettiamocela tutta, e il commento del direttore della Stampa Mario Calabresi, se il futuro dipende da ognuno di noi, perché questo è stato anche uno dei messaggi di Napolitano, cioè è vero, è una crisi gravissima, è vero, ci sono responsabilità politiche, è vero, c'è il malaffare, è vero, c'è la corruzione, c'è la criminalità organizzata che toglie linfa vitale al nostro paese, però cominciamo proprio da noi stessi, facciamo questo ennesimo sforzo di responsabilità e di assunzione di responsabilità. Vediamo invece la prima pagina dell'Avvenire, dedicata a Papa Francesco, e che nella giornata mondiale della pace l'appello del pontefice alla preghiera e all'impegno concreto per combattere contro ogni forma di schiavitù. Francesco, la pace, dono e responsabilità. Siamo tutti chiamati a costruire fraternità. Questo l'appello appunto di Papa Francesco. Anche in questo caso la fotonotizia è quella di Greta e Vanessa, Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, e il fotogramma di quel video in cui appaiono velate. Libero è l'unico giornale che pubblica questa fotonotizia, ma in un riquadro più piccolo pubblica anche la foto delle due ragazze così come apparivano quando erano ancora in Italia, e quindi non erano velate, una bionda e l'altra bruna, e sembrano quasi appunto due persone diverse. Il titolo, ecco come le ha ridotte l'Islam, ma il titolo principale è dedicato a Napolitano, ma con naturalmente una visione molto critica. Quindi Napolitano ci è costato 16 milioni e tanti guai, lo stipendiamo dal 1953, il conto degli emolumenti incassati dal peggior, cito testualmente dall'occhiello del titolo di Libero, del peggior presidente della storia della Repubblica è nulla in confronto al prezzo dei suoi errori. Nei suoi 9 anni l'Italia è crollata economicamente, e l'editoriale di Maurizio Belpietro, direttore di Libero, e poi molti articoli dalle pagine 2 alle pagine 5 sempre sulla questione del discorso di fine anno di Napolitano, ma soprattutto sul bilancio dei suoi 7 anni più 2 da Presidente della Repubblica. Il giornale ha un titolo principale dedicato alla vicenda delle due ragazze, ora li paghiamo pure per farci mettere il velo, in un video le giovani italiane rapite in Siria dagli islamici costrette a mettere il chador, il governo deve riportarle a casa ma ci costerà milioni e così finanzieremo i terroristi, la questione di cui parlavamo anche prima. In primo piano. E rieccoci ancora, buongiorno, buon anno da Giulia Crivelli. Eravamo sulla prima pagina del giornale, durissimo il commento di Vittorio Feltri, il trionfo della mediocrità, al commento al discorso di Napolitano, il titolo è Napolitano lascia il colle con troppi non detto e col discorso registrato, chi infatti si è esercitato nell'analisi del video di Napolitano ha notato per esempio che c'era un bicchiere che poi a un certo punto non c'è più e quindi probabilmente il discorso era registrato, è stato leggermente editato. esercitato, e vabbè, c'è chi appunto si è esercitato su questo, su questa analisi tecnica del video, ma il commento è appunto il trionfo della, della mediocrità, inizia a pagina 1, finisce a pagina 2, ve lo leggo, poi subito dopo vi leggerò invece un commento positivo sul Foglio allo stesso discorso. Scrive Vittorio Feltri: di solito un evento molto atteso si rivela poi deludente, anche stavolta è andata così. L'ultimo discorso di Giorgio Napolitano, a parte l'accenno al motivo delle dimissioni, l'età e la salute precaria, è stato simile al primo, al secondo, al terzo e ai successivi. D'altronde, cosa volete che dica di sorprendente un capo dello Stato che si rivolge ai sudditi per augurare loro buon anno? Anche noi comuni mortali, scambiandoci messaggi festosi, il 31 di dicembre non brilliamo per fantasia, anzi siamo abbastanza ripetitivi al punto che vari amici furbetti si sono inventati gli SMS seriali. Ne scrivono uno generico e lo inviano a tutti i contatti presenti nella rubrica del loro cellulare. Ecco, vi dicevo, questo commento che poi continua ed è oggettivamente molto critico, come contraltare vi segnalo quello sul Foglio di Sergio Soave, 9 anni dopo, vi leggo l'ultima parte. In questo annuncio, nella sincera e quasi toccante ammissione dei pericoli che possono derivare da un indebolimento delle sue capacità dovuto all'età, Napolitano ha dato un'alta lezione di stile. Come aveva testimoniato Giulio Andreotti, quasi tutti i presidenti della Repubblica avrebbero gradito una conferma del mandato. Napolitano invece è stato costretto dalle circostanze e dalle pressioni convergenti di tutte le forze politiche responsabili ad accettare una rielezione che ha interpretato come una breve proroga, che ha voluto e saputo delimitare con un rigore, una dignità che gli fanno onore. Spesso è proprio chi deperisce nelle proprie capacità intellettuali a non rendersene conto. Napolitano invece, proprio temendo un fenomeno che evidentemente non è affatto un destino, ha preferito chiudere l'esperienza presidenziale di propria iniziativa e darne conto agli italiani in modo esplicito e commovente, oltre la nota sobrietà. Ma insomma, un po' per alleggerire questo dibattito, vi segnalo anche la rubrica di Andrea Marcenaro sul Foglio, che si chiama Andrea's Version, che è sempre molto ironica, e oggi è dedicata a tutti quelli che hanno detto che cosa avrebbero detto loro se avessero, se a loro fosse toccato il discorso di fine anno. Beppe Grillo ha fatto sapere cosa avrebbe detto lui se fosse stato il Presidente della Repubblica. Marco Travaglio ha scritto che cosa avrebbe ricordato lui se fosse stato Presidente della Repubblica. Salvini ha comunicato che il suo discorso di fine anno avrebbe espresso concetti ben diversi fosse mai stato Presidente della Repubblica. Nicola Vendola, detto Nicky, ha sottolineato che di parole di tutt'altro spessore avrebbero bisogno gli italiani e avrebbe ben saputo pronunciarle lui se fosse stato il Presidente della Repubblica. Totò non ha detto niente perché è morto. E questo era Andrea Marcenaro. Ma sempre su fine anno, e sempre insomma per mischiare un po', diciamo così, sacro e profano, l'articolo di Alfonso Berardinelli: Leopardi sarcastico sugli uomini a vapore, Baudelaire isterico contro il progresso, caro ai pigri e bricconi. C'è questo excursus letterario su come questi due illustrissimi poeti e letterati, Giacomo Leopardi e Baudelaire, si avvicinavano al Capodanno. E allora scrive Berardinelli: eccoci dunque all'appuntamento di fine anno con Leopardi e Baudelaire. Quest'ultimo fa finta di aver incontrato un tipo stravagante a cui mette in bocca una cosa che beffardamente pensa lui stesso. Sono gli auguri di Capodanno che portano male, ma nessuno lo sa, e per questo l'umanità continua a essere infelice. Leopardi disse la sua in quell'operina morale che viene fatta leggere anche alle scuole medie, lo stranoto dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. Secondo Leopardi si pensa che sia migliore la vita futura perché non la si conosce e non c'è ancora. Di quella passata, la sola reale, si pensa invece che sia peggiore. C'è tuttavia un caso possibile di cui si parla poco. È il caso di chi potrebbe dire: sono stato così felice in passato che in futuro non potrò che peggiorare. Leopardi pensava, come Rousseau, che nel progresso si guadagna una cosa e se ne perde un'altra. Non solo della ragione, ma anche del sapere, della dottrina, dell'erudizione, delle cognizioni umane, si può dubitare se facciano progressi reali. Per moderno si dimentica e si abbandona l'antico. Si apprende, si sa quel che sanno i moderni, quel che seppero gli antichi, che forse equivaleva. Si trascura e signora. Gli uomini imparano ogni giorno, ma il genere umano dimentica. Così scriveva Leopardi nello Zibaldone. Ma siccome abbiamo citato Marco Travaglio, vi segnalo oggi il suo editoriale Andante con ritmo. Per una volta non è così un attacco super documentato o a Matteo Renzi o a Giorgio Napolitano o a un altro dei bersagli preferiti di Marco Travaglio, è invece una triste elenco di numeri ahimè assai crudeli e che parlano da soli, come spesso fanno i numeri, sui mali del nostro paese, e ve lo consiglio in realtà perché appunto un po' si diceva i popoli dimenticano, ecco, forse noi questi numeri e molti numeri sulla condizione del nostro paese non dovremmo dimenticarli, o comunque dovremmo poterli citare sempre con cognizione di causa. Allora vi leggo la prima parte: l'Italia è il paese europeo col maggior numero di leggi e col più alto tasso di illegalità. È prima in Europa, nel G7, nell'intero Occidente per corruzione percepita. Al 69esimo posto fra le nazioni più virtuose, fonte Transparency International. La corruzione si mangia il 40% di ogni grande opera. Solo l'alta velocità ferroviaria costa da noi una media di 61 milioni a chilometro, contro i 10,2 della Parigi-Lione, i 9,8 della Madrid-Saviglia, i 9,3 della Tokyo-Osaka. Fonte Commissione dell'Unione Europea. Abbiamo i cantieri più lenti d'Europa, con tempi allungati di un terzo negli ultimi 5 anni. Ogni opera sopra i 100 milioni dura in media 14 anni. La nostra evasione fiscale è la più alta d'Europa, la terza nel mondo dopo Turchia e Messico, come pure la pressione fiscale, 44%, la quarta dell'Eurozona, la prima per il suo aumento in base al PIL nell'ultimo decennio. Ogni italiano evade in media 38 euro ogni 100, merito dei 10-11 milioni di evasori su 40 milioni di contribuenti. E così, insomma, così avanti. Ripeto, non è proprio un articolo ottimista, però, come dicevo, insomma, i numeri vanno sempre tenuti presenti, perché su quelli poi si possono basare tanti altri ragionamenti. Il manifesto ha la foto dedicata non alle due cooperanti, o meglio, non la foto principale, poi in realtà c'è la foto delle due cooperanti, ed il manifesto è l'unico che non utilizza quella di Greta e Vanessa velate, ma di Greta e Vanessa in un momento di serenità prima di partire per la Siria. Ma la foto principale è una foto di Giorgio Napolitano, fotografato mentre stava mettendo una firma in qualche importante registro. Il titolo: capo linea. Dopo 9 anni al Colle, Giorgio Napolitano si congeda dalla presidenza, lasciando intatti, se non aggravati, tutti i problemi aperti in Italia e in Europa. Dalle riforme all'economia, fino alla lotta alla corruzione e all'antipolitica, la missione del presidente delle larghe intese non è riuscita. Questo la conclusione del manifesto. Citiamo anche la Gazzetta dello Sport in questa pausa, perché insomma in Italia, a differenza di altri campionati come per esempio quello inglese, in questi giorni non si giocano partite ufficiali del campionato, però c'è molto movimento per il calciomercato. E allora ancora una volta l'Inter, un po' che è quella che, da cui potrebbero arrivare gli annunci più eclatanti sui nuovi arrivi. L'Inter scatta sulle ali, Podol sì, naturalmente è un gioco di parole per riferito a Lucas Podol, che appunto potrebbe arrivare all'Inter, e ora Lavezzi, l'altro Ezechiel Lavezzi, hanno entrambi 29 anni e entrambi appunto sarebbero nel mirino di Mancini, l'allenatore dell'Inter. E poi ci sono anche naturalmente altri approfondimenti, ma sempre un po' in attesa che rinizi il campionato. Quindi per esempio approfondimento sulla Juventus, capolista, Juve triturbo, bianconeri sempre più ambiziosi, Tevez non rinnova ma resta, e a luglio può arrivare anche Falcao. Snyder apre già per gennaio, ecco il piano grande Champions. Ma veniamo un po' alle pagine interne, che naturalmente sono ricchissime oggi, essendoci appunto stata una pausa di un giorno, e torniamo sul Sole 24 Ore, perché dicevamo l'apertura del Sole 24 Ore è su questo decreto mille proroghe che è entrato in vigore. E c'è un'analisi a pagina 3, uno schema in cui si capisce tutto quello che è stato appunto prorogato, con i principali termini, quindi dal pubblico impiego ai servizi radiotelevisivi, la banda ultralarga, televisioni e quotidiani, dove è stato appunto prorogato per esempio il divieto di partecipazioni in crociate, tutte le leggi sulle, dicevamo, le province che sono state prorogate, è stata rinviata la fine dei contratti a termine, e ancora moltissime altre. Il commento di Marco Mobili e E poi ancora tantissime altre notizie sempre relative alle nuove norme che sono appena entrate in vigore, ma vi segnalo anche dal dorso di Imprese Territori una buona notizia. Laura Cavestri ci racconta come il settore del mobile, che è una delle grandi eccellenze italiane e anche uno dei settori che esporta di più, adesso prova la rimonta anche sul mercato interno. Nel 2015 infatti è prevista una stabilizzazione dopo anni di crollo, come molti settori negli ultimi anni è non soltanto sopravvissuto ma anche in alcuni casi prosperato grazie all'export. Ora finalmente si intravede una ripresa appunto sul mercato interno. Laura Cavestri poi ci fa anche alcuni focus su quello che riguarda i mobili per ufficio, l'export che potrebbe avviarsi anche verso paesi che non erano così scontati fino a ieri, per esempio l'Africa subsahariana, e poi un focus sulla luce, perché anche in questo settore l'Italia ha alcune eccellenze mondiali, anche se di dimensioni piccole, che è un po' forse il problema. Dal dorso di Finanza e Mercati vi segnalo l'intervista di Cristian Martino all'amministratore legato di Borsa Italiana Raffaele Ierusalmi, che spiega un po' tutte le sue strategie, tra cui anche il fatto che per gli aumenti di capitale servono nuove regole, quindi alcuni nodi di governance che potrebbero essere affrontati in questo nuovo anno. Ierusalmi spiega appunto che su questo tema la Borsa Italiana sta lavorando con la Consob, e poi parla di questo progetto Elite, che è una sorta di aiuto per accompagnare le imprese che hanno molte carte in regola per quotarsi verso la quotazione. Si tratta di un percorso economico finanziario, perché naturalmente sono moltissime le regole che le aziende devono seguire per poter essere pronte per la quotazione, tecnicamente pronte, ma si tratta anche di un progresso culturale, perché a volte appunto il passo di quotarsi, di diventare un'azienda pubblica per aziende magari di medie dimensioni, come sono moltissime di quelle italiane, è anche proprio una questione di salto culturale. Dalle pagine dal dorso di Norme e Tributi vi segnalo che continua, siamo già alla quarta puntata, l'approfondimento sulla legge di stabilità. Oggi si parla in particolare di welfare, quindi sul TFR in busta paga. Sapete, questa novità appunto della facoltà che abbiamo tutti noi lavoratori dipendenti di chiedere di avere il TFR in busta paga per cercare di aumentare in qualche modo lo stipendio e far fronte a tutte le spese, anche le tasse nuove che si possono avere. Il fisco però non fa sconti, i lavoratori possono scegliere questa opzione da marzo fino a giugno del 2018, ma appunto c'è il nodo fiscale, cioè questo TFR in busta paga verrà letteralmente tartassato, e questa è una dei focus. E poi naturalmente sono ben sei i focus su cui si concentra la quarta puntata dell'analisi del Sole 24 Ore della legge di stabilità, e li trovate a pagina 34 e 35. Un altro approfondimento per quanto riguarda il fisco, sempre nel dorso di Norme e Tributi, e riguarda in particolare l'elusione fiscale guida lo schema di decreto sulla certezza del diritto, quindi procedure, garanzie, le mosse della difesa, la portata degli effetti e quello che sono proprio i reati tributari. Trovate tutto questo a pagina 37 del Sole 24 Ore, nel dorso di Norme e Tributi, che se ci fosse Mauro Meazza appunto potrebbe spiegarvi con ancora maggior competenza, perché è lui il responsabile di tutta questa parte informativa del Sole 24 Ore. In primo piano. Ancora buongiorno, buon venerdì e soprattutto buon anno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine interne dei giornali dopo tutti gli approfondimenti sulla legge di stabilità, sul decreto mille proroghe e sulle novità fiscali, le trovate su Sole 24 Ore. Passiamo al Corriere della Sera, che ha a pagina 5 un'intervista di Monica Guerzoni alla Presidente della Camera Laura Boldrini. Inevitabili alcune domande sul fatto che il prossimo inquilino del Quirinale potrebbe essere una donna, e allora chiede Monica Guerzoni: lei ha detto che l'Italia è pronta per una donna al Quirinale, la politica però non sembra altrettanto pronta. E Laura Boldrini risponde: fosse così sarebbe molto triste. Se le donne possono dirigere il CERN, possono salire al Quirinale. Il riferimento è naturalmente a Fabiola Gianotti, che è stata citata anche da Giorgio Napolitano nel suo discorso, che è appunto stata scelta come presidente del CERN, che è questo importantissimo centro di ricerca europeo. Quando mi è stata fatta la domanda, risponde Boldrini, cosa avrei dovuto rispondere per non essere etichettata come una che si autocandida? Avrei dovuto dire che il paese non è pronto? Non sarebbe stato sorprendente se avessi affermato che il Quirinale è un posto per soli uomini? Neanche un uomo potrebbe rispondere così. La delegittimazione delle donne impoverisce il dibattito. Abbastanza, insomma, come dico io, giusto, anche se insomma molto banale, sicuramente delegittimare le donne impoverisce il dibattito. E allora le chiede ancora Guerzoni: c'è chi dice che Renzi sia alla ricerca di un presidente che non gli faccia ombra, e Laura Boldrini risponde: sono certa che non sarà così, che non siano queste le sue intenzioni, sono fiduciosa, non è interesse di nessuno scegliere un presidente che non sia super partes. Napolitano ha tratteggiato una personalità capace di senso istituzionale e alto senso etico, e non una persona che si mette a disposizione di un partito, e lo speriamo veramente tutti. Sempre dalle pagine interne del Corriere vi segnalo un bellissimo reportage di Paolo Conti da Gallipoli, che ci racconta l'ennesima tragedia dei migranti. 797 siriani della nave alla deriva, le coperte della gente di Gallipoli. L'attracco è avvenuto alle 3 di notte, con la solidarietà di tutti gli italiani accorsi sul posto e i commenti raccolti da Paolo Conti, che sintetizzati nella frase: questo è un paese buono, che è una delle frasi che più lui ha ascoltato, perché nonostante le mille difficoltà, nonostante chi come il galantuomo Buzzi di Roma abbia lucrato sull'arrivo dei migranti, ci sono poi tantissimi italiani normali che di fronte a questa tragedia prestano la loro opera spesso gratuitamente. Dalle pagine interne del Corriere della Sera anche una pagina intera di Anna Meldolesi, che spesso si occupa di scienza, di divulgazione scientifica, e che ci racconta: così la scienza ci cambierà la vita, dai nuovi farmaci alla lotta per mitigare i cambiamenti climatici, le speranze e le certezze legate alla ricerca per il 2015. Il primo focus citato da Anna Meldolesi è il vaccino per battere Ebola, ci potremmo essere vicini, ma ci sono appunto anche il tema dell'ambiente, poi della ricerca nello spazio, per esempio per quanto riguarda lo spazio, appunto, potrebbe esserci presto un incontro ravvicinato con Plutone. Perché ci sono c'è questa missione New Horizons, che è della NASA, che porterà, scrive così Anna Meldolesi, i nostri saluti a Plutone. Il contatto ravvicinato avverrà il 14 luglio a 10.000 km e consentirà di scattare le prime immagini dettagliate di questo mondo ghiacciato. Pensate, questa sonda è partita dalla Terra nel 2006. Dal Corriere della Sera vi segnalo anche una bella intervista a Naomi Watts, l'attrice australiana, in questo momento è al cinema con un film, St. Vincent, con Bill Murray, ma è, insomma, ne ha altri in uscita. Stefano Montefiori l'ha intervistata: mi preoccupo sempre di far contenti gli altri, ma così finisco per deludere me stessa. E racconta un po' tutto, anche la sua vita, oltre che quella di attrice, anche la sua vita di mamma, che lei definisce, insomma, normale, semplice, come quella di normale e semplice nella sua complicata normalità, diciamo, della vita di mamma. Un articolo molto divertente di Alessio Lana, che racconta questo nuovo fenomeno del meteo fai da te, che poi magari sono previsioni che si fanno perché si utilizzano centraline domestiche con cui ci si diverte, appunto, a essere un po' meteorologi, e poi magari si condividono i risultati in rete. Dalle pagine della Repubblica, come vi anticipavo prima, questa indiscrezione raccolta da Federico Rampini, secondo la quale il presidente Obama avrebbe contattato Henry Kissinger per chiedergli aiuto per riscaldare un po' i rapporti con Vladimir Putin. Il presidente USA ha chiesto aiuto all'ex segretario di Stato, e dopo Cuba potrebbe arrivare l'ora delle aperture al Cremlino. Sapete che appunto Obama prima di Natale ha annunciato questa apertura di Cuba, non è ancora stato tolto l'embargo, però si sono ripristinate le relazioni diplomatiche, è un primo passo. Ora naturalmente il problema principale è quello dei rapporti con Mosca. Da pagina 27 della Repubblica un reportage invece di Enrico Franceschini, e che ci racconta da Londra come questi bonus milionari, che spesso sono stati molto criticati, bonus milionari a chi lavora nel mondo della finanza, ecco, alla Goldman Sachs sono stati evitati, è stato evitato in extremis il divieto dell'Unione Europea, quello che Franceschini definisce un regalo da 3,8 milioni di euro per 121 manager, con una protesta poi nel Regno Unito, perché questi sono manager appunto della City londinese, dove c'è chi ha addirittura definita una scelta oscena e arrogante. Un bellissimo reportage sulla stampa di Flavia Amabile, che nella notte di Capodanno, che sapete in molte regioni d'Italia ha fatto scendere il termometro sotto lo zero, che si è mossa Flavia Amabile tra i volontari della Protezione Civile a Roma, pasti caldi e coperta e senza tetto, le notti degli angeli del freddo. Il gelo e la fame sono una miscela esplosiva, e appunto Flavia Amabile ci racconta come il problema del freddo sia stato particolarmente sentito non solo a Roma ma anche in altre città, dove magari in genere in inverno le temperature non sono così rigide come per esempio in Puglia o in Sicilia. Vi segnalo, chi forse ha seguito la rassegna stampa europea di sabato scorso, ne abbiamo parlato, a pagina 14 della stampa, un reportage di Tonia Mastrobuoni da Berlino. Pegida allarma anche la Merkel, basta odio contro gli stranieri. Questo è Pegida, questo è un movimento, non è un partito ma è un movimento di destra, nato nell'ottobre scorso a Dresda, che continua a organizzare manifestazioni in giro per la Germania ed è appunto anti-immigrati, in un modo che alcuni partiti tradizionali, tra cui la CDU della Merkel, cominciano a considerare pericoloso, perché appunto fomenterebbe, ma il condizionale è meglio non usarlo, fomenta l'odio. È proprio un movimento razzista che è in forte crescita in Germania. Sempre dalla stampa, Mimmo Candido ci racconta la fine della, l'abbiamo visto anche nei giorni prima di Natale, è stata chiusa la missione NATO in Afghanistan, bisogna cercare di fare un po' un bilancio. Allora, Kabul 13 anni dopo, la guerra asimmetrica che nessuno ha vinto, chiusa la missione in NATO ma i talebani non sono stati sconfitti. Questa è la conclusione di Mimmo Candido, facendo un po' un excursus di quello che è successo negli ultimi 13 anni. Ma alleggeriamo ancora una volta un po' l'atmosfera. Sempre a pagina 29, Alessandra Comazzi ci racconta: cani e gatti 2.0, sulla rete come in TV sono le superstar. Sale l'attenzione e la spesa per gli animali domestici, aumentano i siti dedicati, le app per tablet e smartphone e le trasmissioni che insegnano ad allevare i cuccioli. Ce ne sono veramente tanti, vengono citate per esempio, questa è veramente divertente se non l'avete mai vista, bisogna amare un po' i gatti o forse odiarli, non lo so, però questa è veramente divertente, su Real Time ci appunto tra queste trasmissioni, si chiama Il mio gatto è indemoniato, che racconta l'esperienza di Jackson Galaxy, che è un comportamentista per gatti che cerca di ristabilire l'ordine in quelle famiglie dove il gatto ha portato disordine, ma ce ne sono anche tante altre. La stampa stessa tra l'altro ha un sito che si chiama lazampa.it dedicato proprio agli animali. Cambiamo di nuovo un po' tono e livello, e sulle pagine del Messaggero trovate invece una bellissima intervista a Raffaele Cantone, presidente dell'Authority contro la corruzione, nominato da Matteo Renzi. Il titolo dell'intervista: il crimine sa arrivare nel mondo di sopra, e il riferimento è ancora una volta a quella differenza che facevano gli indagati della maxi inchiesta Roma Capitale tra mondo di sotto, mondo di sopra e mondo di mezzo, quello dove vivrebbero loro. Vi segnalo dal Messaggero, ancora una volta facciamo questi salti un po' tra alto e basso, non tra mondo di mezzo e mondo di sopra, ma diciamo solo tra alto e basso. Il supplemento macro del Messaggero è a un'intervista di Paola Pastorini a Giuseppe Santoni, che è il figlio del fondatore di della Santoni, un'azienda di calzature che negli anni ha saputo veramente ritagliarsi una nicchia non solo nelle calzature da uomo, che era da lì tutto è nato, ma adesso anche in quelle da donna. La bellezza ai vostri piedi, questa è veramente un'eccellenza italiana, sono scarpe molto care ma perché sono fatte interamente a mano e stanno conquistando sempre di più appunto non solo il mercato maschile ma anche il mercato femminile. L'occasione tra l'altro è l'uscita di un libro, Costruttori di Bellezza, scritto da Andrea Guolo, che editore Marsiglio, che racconta appunto la storia di questa azienda marchigiana. Andiamo sulle pagine interne dell'Avvenire. Avvenire come sempre ha il merito di tenere una luce accesa su le crisi che magari altri giornali così trattano a intermittenza, e oggi Barbara Guglietti ci racconta a che punto è il dialogo, che purtroppo si può anche definire il dialogo che non c'è, tra Palestina e Israele. Abu Mazen gioca la carta della CPI, cioè della Corte Penale Internazionale, perché l'ONU ha bocciato, lo sapete, la risoluzione per la fine dell'occupazione israeliana. E i palestinesi ora chiedono l'adesione alla Corte Penale, ma purtroppo sapete che tecnicamente la Palestina non esiste come Stato. Qui è già arrivata Irene, però vi segnalo, visto che abbiamo parlato un po' dei problemi della capitale, tanto per cambiare, un'intervista divertente, interessante e anche molto così polemica, che trovate a pagina 10 di Libero, a Enrico Montesano, l'attore, che dice: sciopero fiscale contro Marino, usa la barba per mimetizzarsi, povero Marino attaccato anche per la barba. E l'ultimissima segnalazione che volevo farvi, perché è veramente un film che credo sarà molto bello, esce il 29 gennaio, manca ancora un pochino, ed è il film dedicato al pittore William Turner, un vissuto a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, un pittore straordinario, non molto conosciuto, forse non abbastanza conosciuto fuori dall'Inghilterra. Il film è interpretato da Timothy Spall, un film di Mike Lee, e qui il Libero titola: il più bel ritratto di Turner, Timothy Spall nei panni del pittore, ho recitato senza copione. E era un po' l'ultima segnalazione, passo la parola a Irene che ci racconta ancora, vi stuzzica un po' su quello di cui si occuperà tra pochi minuti. Grazie Giulia. Secondo l'Istat, le famiglie allargate, cosa vuol dire allargate? Ricomposte dopo una disgregazione familiare, sono in Italia 775.000, diciamo tra sposati, risposati e more uxorio. Quindi, secondo l'Associazione Avvocati Matrimonialisti, in queste 775.000 famiglie vivono 4 milioni di persone. 4 milioni di italiani che vivono un nuovo modello, di cui si parla poco, ma che ormai è una realtà consolidata, e sono più o meno 2 milioni e mezzo i figli coinvolti in queste situazioni. Dunque è chiaro che il significativo tracollo dei matrimoni in Italia non poteva che determinare questi nuovi schemi familiari. Era già successo nel Nord Europa, era già successo negli Stati Uniti, chiaramente in Italia non si poteva rimanere indietro. Anche il diritto si deve adeguare, in parte l'ha fatto, riconoscendo la parità tra figli legittimi e figli naturali, ma c'è ancora molto da fare a livello di relazioni. Sono moltissimi gli individui che si trovano in qualche modo disorientati, altri invece che hanno costruito delle relazioni più che soddisfacenti anche coi figli, le figlie del nuovo compagno, compagno, o viceversa coi genitori. Voi come la pensate? Soprattutto che tipo di esperienza avete? Soprattutto aiutateci, visto che il genitore nuovo può diventare ricchezza e risorsa se è intelligente, a coniare un nome, a cambiare anche il linguaggio. Patrigno, matrigna, fratellastro, sorellastra sono termini un po' superati. Ne parleremo dalle 8:30 in 24 mattino, dove affronteremo anche il problema della Grecia e delle elezioni alle porte. Prima però l'aggiornamento con il giornale radio. Un saluto a Giulia Crivelli, che ritorna per la rassegna stampa domani mattina alle 7:15. 24 mattino. 17, ancora un saluto da Irene Zerbini. Stanno cominciando ad arrivare i vostri sms sul tema della giornata, che riguarda le nuove famiglie, perché sono, abbiamo dato delle cifre prima, sono in crescita secondo l'Istat non solo le famiglie monopersonali, ogni volta si conia un neologismo. Monopersonali significa costituite da una persona sola, che a volte è reduce da un'esperienza familiare precedente, a volte ha deciso invece che una famiglia, una relazione, insomma, non l'avrebbe affrontata mai nella vita. Ma al di là delle scelte, oggi 4 milioni di italiani vivono in famiglie ricomposte, allargate. Sono tutti termini burocratici piuttosto aridi per descrivere fenomeni che poi hanno a che fare con relazioni, con sentimenti, con affetti molto importanti. Sono di questi 4 milioni 2 milioni e mezzo figli, cioè figli che si trovano a vivere sotto lo stesso tetto con coppie parentali che non erano quelle con cui avevano iniziato l'esistenza. Ormai è un fenomeno molto sdoganato, ci si presenta anche ai colloqui con i professori per parlare del proprio figlio acquisito o della propria figlia acquisita, però è un fenomeno che stenta a essere riconosciuto dal punto di vista ufficiale. Si parte dal linguaggio, si chiamano ancora patrigno, matrigna, fratello, sorellastra, con un'accezione molto negativa questi nuovi membri della famiglia e vi abbiamo chiesto di aiutarci a trovare dei termini nuovi. Come ci state aiutando? Dicendoci che è meglio così, che è meglio che continuino a chiamarsi patrigno e fratellastro, perché non bisogna illudersi che dividere mamma e papà possa essere una cosa giusta e magari buona. La famiglia è sacra, questo è un po' il tono degli SMS arrivati finora, e chi la spezza commette un delitto immenso, le cui conseguenze si vedono in modo nitido non da subito, ma in modo evidente nelle vie dei figli dopo anni. Finora dunque è decisamente conservatore il tono di chi sta partecipando alla conversazione. Fatelo anche voi al 349 238 6666, oppure partecipate con la vostra viva voce all'800 24 0024. Ma tutto questo dopo che ci saremo trasferiti in un posto cruciale non solo della politica attuale greca, ma anche della cultura, della nascita dell'Europa. Ci stiamo parlando, scusate il gioco di parole, della Grecia. Ci andiamo allora in Grecia, grazie a Pavlos Neranzis. Buongiorno Iassu, benvenuto, grazie per il tuo tempo Pavlos. Buongiorno, auguri anche di buon anno. Grazie. Pavlos Neranzis, oggi nostro ospite, si trova a Salonico ed è un giornalista particolare perché è stato premiato da varie commissioni internazionali di giornalismo proprio per i documentari che ha fatto, per il giornalismo investigativo che ha realizzato grazie a Mixer, il Mixer greco, non il nostro, del nostro Minoli, e riguardo ad argomenti di politica internazionale. Basti pensare al traffico di donne, le guerre dei profughi, i voli della CIA in territorio europeo, i desaparecidos greci in Argentina durante la giunta di Videla. Ora, non voglio snocciolare tutto il tuo curriculum, ma quello che è paradossale, che secondo me fotografa l'intreccio tra la tua biografia e la storia della tua nazione, cioè la Grecia, è il fatto che la tua televisione, la radiotelevisione ellenica, cioè il terzo canale della radiotelevisione ellenica, ERT, noi la chiamiamo così qua in Italia, ha chiuso. Ci puoi raccontare brevemente perché ha chiuso? Ha chiuso perché il governo di Samaras, il governo di coalizione tra conservatori e socialisti, ha voluto presentare un piccolo regalo ai rappresentanti della Troica, cioè all'Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, i quali chiedevano appunto il licenziamento di almeno 3.000 dipendenti pubblici. Ecco, nella radio televisione ellenica pubblica lavoravano in quel periodo 2007, era quindi una soluzione facile senza pensare che questo era un attacco grandissimo alla democrazia, non solo in Grecia ma dappertutto, era una cosa immaginabile. Neanche la giunta dei colonnelli negli anni 70 aveva pensato di chiudere, di far smettere la trasmissione di un'emittente pubblica. Questo è un po' fotografa la situazione di perché tu ti trovi, diciamo così, a non lavorare. Eri il direttore, tra l'altro, di questa radiotelevisione ellenica, c'è stata eco di questa chiusura anche da questa parte dell'Adriatico, cioè ne abbiamo parlato anche in Italia. Ora lasciamo un attimo questo fatto per invitarti a riprendere la tua possibilità di far documentari, se brevemente, radiofonicamente, ci puoi raccontare la Grecia oggi. Sappiamo che ci aspettano queste elezioni, vogliamo affrontare lo scenario politico, ma vorremmo iniziare con un'immagine, cioè quella degli 11 milioni di greci che vivono in questi giorni la possibilità di rottura dei ponti con Bruxelles, come è stato detto, di esclusione della Grecia dall'euro. Cioè, di cosa si parla in questi giorni nelle strade di Atene, di Salonico e non solo? Come sta vivendo la cittadinanza queste settimane di campagna elettorale? Sta aspettando con ansia queste elezioni, perché sono più critiche negli ultimi decenni, cara mia Irene. C'è qui una realtà completamente diversa rispetto a quella che sta vivendo l'establishment politica, non dico la gente, gli europei, cittadini europei come in Italia o in Germania oppure in Spagna, che loro, sto parlando appunto dei mercati e dell'establishment, hanno paura di un governo delle sinistre, soprattutto i mercati, i rappresentanti dei hedge funds, che nel Syriza, in questo partito della sinistra radicale greca, vedono un avversario non disposto a sottomettersi ai loro giochi speculativi. E questo se ne rendono conto i greci, cioè facendo un confronto con 2 anni fa, le elezioni del 2012, allora questa politica, questa strategia della tensione, della paura promossa da parte del governo di allora, ma anche da Bruxelles, ha avuto, diciamo, ecco, un esito positivo, nel senso che i greci avevano paura. Oggi come oggi non hanno più paura, hanno più paura di vedere, di provare una cosa diversa, che sarebbe appunto un voto alla sinistra radicale, perché devi tener conto che questo partito nell'arco di pochi anni dal 4% è arrivato al 28-30%, e il suo elettorato, la sua base elettorale non possono essere considerati di sinistra, è gente, elettori della classe media, insomma, gente che votava per i conservatori, il partito della Nea Democrazia, oppure per i socialisti, il PASOK di Venizelos. Ecco, questa gente non ha più paura, vorrebbe cambiare pagina, provare qualcosa di diverso, perché questa crisi umanitaria purtroppo continua, nonostante le dichiarazioni ottimiste da parte di Bruxelles, di Jean-Claude Juncker o del premier greco fino a ieri di Antonis Samaras. La recessione continua e, a mio parere, se mi permetti qui un commento, è pesante forse che dico, ma dicono delle cose sbagliate e lo fanno apposta, voglio dire, gli elite politiche. Per esempio, ti faccio 2 esempi, no? Il primo riguarda l'avanzo primario, no? Purtroppo Samaras ha fatto ricorso alla finanza creativa, escludendo dal calcolo, perché appunto per la prima volta ha detto all'inizio dell'anno scorso, del 2014, che il surplus primario è positivo. Però Samaras ha escluso dal calcolo non solo il pagamento dell'interesse sul debito, ha escluso anche la spesa sociale, quella delle amministrazioni locali, ha tagliato gli investimenti, ha rallentato la restituzione dei crediti fiscali. Insomma, voglio dire, c'è stata una finanza creativa. E su questo ovviamente i rappresentanti della Troika non hanno reagito. Non hanno reagito perché... Ma al di là dei rappresentanti della Troika, di cui conosciamo bene naturalmente le posizioni, la Germania che continua tra l'altro a remare contro e si unisce a queste voci, c'è stata una sorta però ultimamente, e confermacelo se è vero, ci sembra di capire, di sdoganamento. Se da una parte i greci hanno meno paura di provare qualcosa di nuovo, come hai raccontato, sembra che anche, per esempio, il Financial Times, tu lo citi in un tuo articolo sul manifesto di cui sei corrispondente, sembra che per una parte d'Europa la prospettiva di questo governo non sia più così pauroso, diciamo, in qualche modo, non c'è più il rischio, come si diceva 2 anni fa, di affossare la moneta unica, una minaccia per l'esistenza della zona euro, non viene più vissuto in questo modo. Sì, questo è vero, non vedono più nel governo di sinistra, di un governo del Syriza, una minaccia, forse perché c'è un piano B da parte dell'establishment europea, forse perché già pensano che la Grecia, ma non per colpa del Syriza, no? Non per colpa della sinistra radicale, su questo voglio essere preciso e sottolinearlo, ma per colpa dei mercati, i quali fanno sicuramente sarà uno scontro tra un nuovo governo delle sinistre e i mercati. Ecco, allora si presentano molto più cauti. Ti faccio un altro esempio. Io un anno e mezzo fa, parlando in una tavola rotonda in una televisione, un canale proprio a Milano, no? Ero insieme invitato a Monti, Mario Monti, no? Allora avevo detto, mi ricordo bene quell'intervento, che questo debito pubblico greco, che è altissimo, rimane a livelli altissimi, pensa che il rapporto tra debito e prodotto interno lordo è attorno al 170-175%. Sì. Sì. Dicevo appunto che era impossibile, no? La Grecia non lo può pagare, come non lo può pagare nemmeno l'Italia. L'Italia, se non sbaglio, ha un miliardo, 1300 miliardi di euro è il debito italiano, no? Quindi sono cifre che non possono essere pagate da parte degli stati, no? E quindi sarebbe meglio che ci sia un haircut, un taglio di questo debito. Allora, ma ci sono precedenti di concessione di tagli al debito? Storicamente ci sono precedenti? Ci sono precedenti, certo. La stessa Germania, per esempio, nel 1953 ha avuto, cioè nella conferenza di Londra, e su questo invece si parla tantissimo, e nel 1953 nella conferenza di Londra gli alleati di allora, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, eccetera, hanno deciso di tagliare completamente il debito tedesco, no? Della Germania. Quindi la Germania, che oggi fa la voce grossa, voi ricordate, attenzione, costituisce l'unico precedente in questa direzione. Noi purtroppo, Pavlos, abbiamo esaurito il tempo a disposizione, nei giorni a venire sarai consultato ancora per aggiornarci su quanto sta avvenendo in Grecia in vista delle elezioni del 25 gennaio, sondaggi che attribuiscono percentuali clamorose a Syriza, si parla del 28% circa. Intanto grazie, Iassu, e grazie per il tuo tempo. Pavlos Nerantzis, di cui avete sentito la voce, era in collegamento con noi da Salonicco. La linea non era ottima dal punto di vista radiofonico, ma consideriamo che una testimonianza di prima mano di questo genere meritasse qualche sforzo anche d'ascolto. Ci ritroviamo tra pochissimo per parlare di famiglia, di queste nuove famiglie, queste nuove realtà che ormai sono consolidate dal punto di vista numerico, lo attesta anche l'Istat in Italia, ma che stentano ad avere dei riconoscimenti a volte nel sentire comune. Lo testimoniano anche i vostri SMS che parlano di fratellastri, patrigni, di termini che possono essere giudicati perlomeno riduttivi. 24 mattino. Torniamo in Italia dunque per parlare di famiglie allargate, un bruttissimo termine. Sono attualmente censite in 775.000, ci ricorda Gian Ettore Gassani, presidente degli avvocati matrimonialisti, in un libro che si intitola I perplessi sposi. E di queste famiglie allargate, secondo il centro studi dell'AMI, circa 4 milioni di persone, insomma, sono coinvolte in questo tipo di relazioni. Si tratta di 1,5 milioni di partner e 2,5 milioni di figli, diciamo così. E quindi sempre più spesso si vive col figlio, con la figlia, con i ragazzi, con i bambini di cui non si è genitori biologici. Si possono ricostruire delle relazioni non solo importanti ma anche felici in questo nuovo tipo di famiglia, secondo la maggioranza dei nostri ascoltatori, no, finora. 349-238-6666, questo è il numero degli SMS, e a sorpresa c'è proprio quasi uno scagliarsi contro coloro che vivono in situazioni di famiglie ricomposte. Ma i termini aiutano a creare una specie di stigma verso le relazioni che non sono frutto di relazioni di sangue? C'è ancora in Italia questa predominanza della biologia sulle scelte? Cerchiamo di rendere contezza di una realtà che ormai è più che diffusa, come avete sentito dalle cifre, ma di cui ancora si parla poco. Innanzitutto benvenuto all'avvocato Gian Ettore Gassani, buongiorno. Buongiorno a voi. Sa perché l'abbiamo invitata, avvocato? Non perché lei sia il presidente degli avvocati matrimoniali. Dell'associazione avvocati matrimoniali. Dell'associazione. Non tanto per quello, è chiaro che lei abbia a che fare tutti i giorni con questa realtà che ormai racconta il nostro paese, ma perché leggendo come lei lo racconta, come lei ne parla, i suoi articoli, i suoi libri, questi perplessi sposi, lei riesce a emozionare, cioè riesce a trasmettere tutti quei sentimenti, quegli intrecci complessi che ci sono dietro queste aride statistiche. Insomma, dal tracollo del matrimonio italiano, questi nuovi schemi familiari sono portatori sempre di contraddizioni, lotte in tribunale, o lei dalla sua esperienza ha visto anche la ricostruzione di rapporti felici, fatti e vissuti con intelligenza? Ho visto entrambe le cose, ho visto entrambe le facce di questo nuovo fenomeno, che è un fenomeno che è direttamente proporzionato al numero enorme di separazioni e divorzi, per cui è chiaro che più separati ci sono, più divorziati ci sono, più c'è la possibilità di le cosiddette famiglie allargate. Esistono due correnti di pensiero, per la verità, è quella che in qualche modo, secondo me, sbagliando, dovrebbe imporre al genitore separato di non coinvolgere terze persone, altre persone nella vita dei figli, cioè come se a un certo punto uno dovesse fare una sorta di patto con i propri figli, una sorta di voto di castità, non potete coinvolgere appunto una nuova compagna o un nuovo compagno. Cioè invece un'altra cultura, che tra l'altro è sorretta dalla giurisprudenza, è quella che assolutamente non prevede divieti, e quindi si creano questi rapporti con i terzi genitori. Ed è qui che poi bisogna essere intelligenti, bisogna creare una scuola di terzi genitori. Una scuola di terzi genitori? Lei non li chiama patrigno e matrigne? No, sono termini molto brutti, come fratellastri e sorellastri. Sono degli zii, io li considero degli zii. Non devono interferire nei processi educativi che i genitori veri devono dare ai figli, non devono mettersi in competizione, non devono farsi chiamare papà e mamma, ma devono esistere, devono portare un contributo, possono essere assolutamente una risorsa. E ne conosco tanti di casi in cui queste nuove figure diventano delle risorse, addirittura si prendono cura più dei genitori stessi dei figli. Lei racconta nel suo libro un'esperienza molto bella, molto significativa, molto intelligente, quando lei ebbe a che fare con la classica storiaccia di una madre separata che ogni fine settimana, pur di impedire ai figli di stare con il padre vero, cosa faceva? Sventolava un certificato medico falso che attestava malattie respiratorie ai bambini, raffreddore, insomma, pur di non concedere i figli al padre. Contrasti, denunce, tutto quello che ci si può immaginare ne è derivato, e chi è stato in questo caso a sbloccare la situazione? Proprio il compagno di questa donna capì che non era più possibile continuare con questa deriva immorale, e quindi intervenne e fece in modo da rendersi mediatore di questa vicenda, e consentì quindi al padre vero di vedere i figli come suo diritto e come suo dovere. Quindi molte volte questi uomini, queste donne entrano nelle famiglie di persone separate e divorziate, e addirittura, ripeto, diventano delle risorse, dei veri e propri tesori, delle fatte turchine, soprattutto in molti uomini, perché soprattutto gli uomini, quando vengono da separazione e divorzi, sono a pezzi. Ci sono delle donne che li salvano, che li rimettono in vita, e quindi molte volte, tra virgolette, li educano alla vita, perché sono uomini completamente devastati. Ed è interessante questa testimonianza, perché naturalmente viene da incontri, parole, lacrime che poi lei racconta, si versano nel suo studio, e quindi tutte storie vere. Attenzione, arrivano le segnalazioni degli ascoltatori al 349-238-6666. Io non sono un padre biologico, ci scrive Riccardo, ma sono un padre di affetto. Nessuno si definisce patrigno, e questo testimonia quello che abbiamo denunciato, cioè una terminologia, un linguaggio che è rimasto indietro rispetto a quello che sta accadendo in Italia. Il problema, ci scrive Carlo, sono tanti gli uomini che ci stanno scrivendo, il problema non è nei modelli relazionali, ma nella capacità individuale di amare. Non dimenticate di parlare anche di noi, le famiglie omogenitoriali. Spero anche il 2015, scusate, forti diritti per le nostre famiglie e i nostri figli. E sono due donne in questo caso che ci scrivono, si chiamano Lorenza ed Emiliana. Lei è avvocato, racconta nel suo libro, anche se poi sembra che le cose un pochino siano migliorate in molti tribunali, di umiliazioni persistenti per i genitori separati e che decidono di lasciare moglie o marito per intraprendere una relazione omosessuale. Umiliazioni bassissime, racconta, di linguaggi e addirittura di omologazione all'incapacità di essere genitore se una persona decide di lasciare, insomma, il matrimonio etero da cui a volte proviene per seguire il proprio nuovo compagno o la propria nuova compagna dello stesso sesso. È ancora così? Sì, non c'è dubbio che esista una omofobia di fondo nel nostro paese, l'ho rilevata anche in alcuni provvedimenti giurisdizionali, il libro è di 2 anni e mezzo fa, però le cose fondamentalmente non sono del tutto cambiate, esiste ancora un problema culturale per cui il genitore omosessuale spesso è stato attaccato duramente dall'avvocato avversario o magari preso come un malato da curare da qualche spaluto tribunale, e ci sono state addirittura delle perizie, sono state fatte le perizie sull'omosessualità, insomma la letteratura giudiziaria è piena di queste cose. Per e di fatto si è impedito, o meno, se poteva incidere negativamente sui figli, si è arrivati anche a questo. E di fatto si è impedito al padre o alla madre omosessuale di avere accesso al figlio? All'inizio sì, dopodiché per fortuna esistono le perizie fatte da persone serie, insomma, che praticamente si è capito che l'omosessualità è una scelta, non è una malattia, quindi da questo punto di vista spero di non leggere mai più sentenze di questo tipo, perché andiamo veramente a Strasburgo, io con tutta l'associazione. Insomma. Alessandra Tedesco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Alessandra Tedesco è la conduttrice di Il Cacciatore di Libri, la trasmissione di Radio 24 in onda al sabato. Ci ricordi gli orari, Alessandra? Sì, noi accontentiamo tutti, mattinieri alle 6:30 e quelli che invece vanno a dormire più tardi alle 22, insomma ce n'è per tutti, non potete sfuggire. E ti abbiamo coinvolto oggi proprio perché la letteratura a volte anticipa, è una visione più, per fortuna, aperta dei tribunali o del legislatore in tematiche delicate che determinano poi il benessere, la felicità, la qualità della vita, l'avete sentito, di 4 milioni di persone in Italia, 2 milioni e mezzo di bambini. In questo senso, quali sono i libri che in Italia hanno trattato questi temi della famiglia allargata? Allora, non solo i libri, i romanzi, mi riferisco ai romanzi, anticipano la realtà, come giustamente sottolineavi tu, Irene, ma la cosa bella dei romanzi è che siccome il lettore si immedesima, come dire, vive le stesse emozioni dei personaggi, porta le persone a comprendere situazioni molto molto diverse dalla propria. Questo è il vantaggio, secondo me, del romanzo rispetto, magari, con tutto rispetto, al saggio istituzionale e così via. Quest'anno, per esempio, anzi l'anno scorso, nel 2014, c'è stato questo romanzo molto molto bello che si intitola Sei come sei di Melania Mazzucco, pubblicata da Einaudi. Raccontava la storia di due papà, quindi una coppia omosessuale, una figlia. All'inizio del libro si scopre che il padre biologico muore e l'altro uomo che si è preso cura di questa bambina è stato il suo papà per 10 anni, all'improvviso non ha alcun diritto nei confronti di questa bambina. Questa bambina viene, come dire, strappata dalle sue braccia, affidata ai nonni, e per altri anni questa bambina non vede più il suo vero papà. Poi il romanzo è tutto nella ricerca di questa ragazzina nei confronti di questo che ha considerato il suo papà, anche se non era il suo papà biologico. Ricordiamo questo libro perché si è accesa una controversia, una polemica in un liceo in cui fu fatto leggere, fu giudicato immorale, ma a noi interessa un altro aspetto: come è stato percepito? Tu dici che la letteratura aiuta e insegna a comprendere realtà molto diverse, differenti, lontane dalla propria. Che esperienza hai in questo senso? Ecco, ti faccio un esempio, Irene. Io ho proposto questo libro come libro facoltativo, ecco, ad un gruppo di lettura che conduco a Melso, che è un paesino, insomma, in provincia di Milano, è un comune nell'Interland milanese. È un gruppo di lettura frequentato soprattutto da donne di una certa età, molto conservatrici, con un'idea molto tradizionale della famiglia e così via. L'ho proposto un po', come dire, in punta di piedi. La cosa più bella è che una signora, diciamo, più vicina ai 70 che ai 60, con un'idea molto tradizionalista della famiglia, è venuta a dirmi: grazie per avermi fatto leggere questo libro, e mi ha emozionato perché ho capito una cosa, che questo era semplicemente un papà. Cioè non era né un omosessuale né un gay, cioè non aveva definizioni. Questa è una donna che chiaramente non ha a che fare con certe situazioni magari attuali, e la cosa più bella che mi ha potuto dire è grazie, perché ho capito che quello era un papà. 349-238-6666, questo è il numero degli sms a cui proprio in questo istante Un ascoltatore ci ha inviato un messaggio: i genitori omosessuali non esistono, esistono solo i genitori. Oggi stiamo parlando di famiglie ricomposte. Genitore è chi i figli li cresce e li educa, molto spesso più di chi li mette al mondo. E c'è anche un regista, e tra poco ve lo presenteremo, dalla sensibilità delicatissima, che ci ha detto: padre è chi lo merita. 24 mattino. Diritti, coppie di fatto ancora in Italia non ne hanno. Oggi non entreremo in questo tema perché è già stato trattato precedentemente dai giornali, e c'è da chiedersi, però lo ricordano anche gli avvocati matrimonialisti, il principio di solidarietà che deve impermeare anche giuridicamente una famiglia. Come può essere mantenuto in vita se, quando una persona ha dedicato magari tutta la sua esistenza al proprio partner, poi non gli viene nemmeno riconosciuta una pensione di reversibilità, un aiuto in vecchiaia, un riconoscimento economico, e questo viene tollerato in un paese civile? La tutela della dignità delle persone non è un fatto privato, dovrebbe essere un fatto sociale. Noi siamo ancora lì. Oggi però vogliamo affrontare il tema delle famiglie che invece ce l'hanno fatta, quelle che con grande serenità vivono legami nuovi, relazioni nuove, e a volte che cambiano completamente la percezione del mondo. C'è un film bellissimo, si intitola Mio papà, dal quale vogliamo proporvi un brano uscito in aprile in Italia, e vi proponiamo questo tema scritto da un bimbo verso una figura che in realtà non era il suo genitore biologico. Ascoltiamolo. È un tema che gli hanno dato da fare a scuola. Ecco. Leggi. Emma. Mio papà. Svolgimento. Mio papà è molto buono ed è anche molto forte, veramente. Io con lui ci divertiamo tanto. Andiamo al cinema, poi giochiamo, poi ci divertiamo di nuovo, poi mangiamo e dopo, tardi, andiamo a dormire. Certe volte, quando lui si arrabbia, io lo so che anche se mi strilla, lui mi vuole bene. Di lavoro, lui fa che aggiusta il mare e è tanto coraggioso perché va sott'acqua a tanti metri sotto con le bombole e non ha paura dei pesci grandi che lo possono mordere. Quando sono grande, anch'io voglio aggiustare il mare come lui. E avete sentito un estratto di questo film, si chiama Mio papà, con noi il regista Giulio Base. Grazie per il suo tempo, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie a voi. E lei ha scelto, mentre questa signora leggeva il tema a quest'uomo, di inquadrare il viso dell'attore turbatissimo mentre gli leggeva questo tema. Perché era turbato quest'uomo? Beh, perché capisce solo alla fine che il papà di cui questo bambino sta parlando nel tema è lui, pur non essendo suo padre biologico o anagrafico o di genetica, diciamo come vuole. Quindi capisce in quel momento di essere il padre di questo bambino, pur non essendolo dal punto di vista naturale. Cioè lui pensava di essere solo il fidanzato della mamma di questo bambino? Sì, esatto. Non si era reso conto che per questo bambino era diventato a tutti gli effetti il padre. E quando il bambino a scuola gli viene chiesto: fai il tema su mio papà, parlo di lui. Ed ecco perché questo avvocato nel film lo viene a chiamare per raccontargli questo stato di cose. E quindi il suo protagonista incontra questa donna, e questa donna ha un bambino, e capisce che se vuole stare con lei deve prendere tutto il pacchetto, madre e figlio. È una scelta difficile. È una scelta d'amore. Se uno ama una persona, è difficile dire ti scindo da quelle cose da cui tu non puoi prescindere, per l'appunto, scusate il pleonasmo, ecco. Cioè non si può dire ti amo se però ti cambi i piedi, non ti amo se cambi il fatto che hai un figlio. Sono cose ovviamente che non si possono fare, non si possono prescindere, anche forse un po' sciocco pensarlo, quindi o ci si butta, tra virgolette, o no. Il mio protagonista si butta in questa storia, ha delle enormi difficoltà con questo bambino, e viceversa, perché i due non si sopportano all'inizio, quando invece scoprono di essere affini, il film propone un'idea di mondo. Ecco, ho sentito gli interventi precedenti, le lettere dei vostri, dei tuoi ascoltatori, dei nostri ascoltatori in questo momento, e è vero che, come spesso accade, il popolo, la gente, le persone, i cittadini, chiamiamoli come vogliamo, sono un pochino più avanti della legislazione, della legislatura, delle leggi, e quindi spingiamo tutti in avanti perché anche queste leggi si ricordino dei diritti che al momento non sono sostenuti, garantiti. Le piace, Giulio Base, poter definire il suo un film sulle famiglie allargate? Non molto, non è un termine che mi piace del tutto, perché non so, fa pensare un po' questo allargate a un'idea di volermose bene tutti quanti, pure se siamo diversi, pure se non ci sopportiamo, che per carità, ok, volersi bene è una cosa importante comunque, poi se vogliamo in un territorio superiore siamo tutti una sola famiglia, diciamo, l'essere umano, l'umanità è tutto una famiglia unica. Nel caso specifico fa pensare appunto a malsopportazioni, famiglie che si incrociano soltanto poi in determinati avvenimenti. Io ho fatto questa riflessione, la famiglia è la casa, c'è una casa, o tutti noi più o meno, tranne i meno fortunati, abbiamo una casa, chi vive in quella casa, quella per me è la famiglia. Ma poi sempre meno, guardi che un sacco di persone vivono fuori dalla casa e costituiscono la famiglia. E fuori? No, diciamo, ci sono le persone che vivono in quella casa, rappresentano il nucleo, chiamiamolo come vogliamo, ma e di conseguenza io non credo che si possa definire famiglie allargate se poi un'altra persona vive da un'altra parte, si vede solo a Pasqua e Natale, e magari mal sopportato. Questo è il tipo di questo è il tipo sì di sì esistono che, anche no? Queste realtà con la comparsa solo a Pasqua e Natale, poi esistono delle realtà in cui i ragazzi, i figli si alternano tra la famiglia del papà e la famiglia della mamma, a volte senza particolari problemi anche con i nuovi compagni. Sentiamo. No, ma io sono infatti contento, sono contento di questo tipo di cose. Io non, come dire, non contrarizzo l'essere amati da più persone, anzi. Lei ha anche un'esperienza personale? Beh sì, io ho una figlia che non è mia dal punto di vista appunto biologico, ma la considero mia a tutti gli effetti, lei considera me suo padre a tutti gli effetti, e siamo in perfetta armonia. Ecco, quindi, e quindi un film che parla anche del suo vissuto. Sentiamo anche la voce degli ascoltatori, velocemente. Raffaele, andiamo a Treviso, buongiorno. Buongiorno. Scusi la lunga attesa, Raffaele, ci dica, purtroppo mi spiace molto su queste tematiche che coinvolgono sfere così importanti, invitarla alla sintesi, ma dobbiamo sottometterci ai tempi radiofonici, dica. Sì, no, beh, è stato innanzitutto piacevole ascoltare tutte le persone che sono intervenute. No, io volevo solamente dare questa un piccolo frammento di vita, nel senso che io sono omosessuale, pur venendo dall'eterosessualità, sono stato quasi sul punto di sposarmi all'età di 26 anni, poi ho capito certe mie divergenze, ho fatto una scelta di vita e da 16 anni vivo con un compagno, viviamo in una casa che abbiamo comprato assieme, paghiamo un mutuo assieme, lavoriamo tutti e due, viviamo nel mezzo degli altri, non siamo isolati completamente dal mondo, assolutamente, abbiamo i nostri amici, abbiamo la nostra vita. E io credo che poi la diversità nasca nel momento in cui ci si pone diversi, nel senso che noi facciamo una vita normalissima, abbiamo i nostri bimbi purtroppo pelosi, non bimbi diciamo in carne ed ossa, però praticamente viviamo una vita serena. Voglio dire anche un'altra cosa, che molto spesso... Cioè avete cani? O anche gatti? Sì, abbiamo un cane e un gatto praticamente. Che ormai sono oggetto di contesa nei tribunali quando ci sono separazioni e divorzi, e ecco. Ce lo raccontava sempre quel libro che citavamo all'inizio, I perplessi ecco. Sposi, quanto noi. I figli. Raffaele, quindi qual è il suo messaggio, scusi? Beh, il mio messaggio è questo, che innanzitutto il vivere nella normalità, il vivere diciamo essendo se stessi, vivendo proprio nella normalità, normalità più assoluta praticamente molto spesso evita di portare le etichette, evita praticamente certo, di additare le persone. È la prima arma contro le etichette. Scusi Raffaele, ma dobbiamo lasciar parlare anche altri, siamo proprio in conclusione, abbiamo capito benissimo il suo messaggio, grazie. Beppe, pronto, buongiorno. Beppe. Pronto, buongiorno. Mi dica, lei che da che esperienza viene? Ma io anch'io ho ricomposto una famiglia perché avevo mia figlia che viveva con me dopo la mia prima separazione, mia moglie altrettanto dopo la sua separazione aveva due figlie, ci siamo incontrati, abbiamo deciso di sposarci, abbiamo nutrito le due famiglie, si può dire. A questo ci punto, sono state difficoltà? No, più che altro difficoltà nascono nel momento in cui i due metodi educativi sono diversi. Vabbè, quello sempre. Uno usa un metodo per il proprio figlio, per la propria figlia, e l'altro usa un altro metodo per la propria. Si cerca di essere uniti nelle scelte, però automaticamente la donna, secondo me, e soprattutto la mamma, diventa più fragile nel metodo educativo dei propri figli. Allora, l'uomo resta più rigido, no? Danno dei punti fermi con delle caratteristiche. Questa è la sua esperienza. Ciò che è importante, grazie a Beppe da Sassuolo, è naturalmente non usare due pesi e due misure con i propri figli e con i figli del compagno. Cioè, se si è persone rigide, lo si sia con entrambi, se si è persone piuttosto amichevole, lo si sia con entrambi queste nuove situazioni. La coerenza viene sempre apprezzata da bambini e ragazzi che notano moltissimo quando ci si allontana da questo modello comportamentale. È stato molto interessante sentire anche le vostre voci per una realtà che l'Istat ha fotografato recentemente, ogni anno definendola in crescita, quella delle famiglie, non piace il termine, allargate, per ora si chiamano così. Io ringrazio Lorenzo Nespoli, Peter Bescapé in regia e naturalmente tutti voi che avete contribuito a questa trasmissione che parla non solo di famiglie diverse, ma delle relazioni di persone. Ci vorrebbe anche tutta una puntata dedicata a un tema specifico, quello tra fratelli acquisiti. Anche quella è una ricchezza, è una risorsa. Quando non ci si mette la malelingua del genitore del primo matrimonio, della prima moglie o del primo marito, quando non sono infatti gli adulti a parlare male dei nuovi fratellini o delle nuove sorelline, si riscontra in genere una esperienza di grande amicizia, quantomeno, se non solidarietà e fratellanza vera e propria in queste nuove famiglie. Noi ci ritroviamo naturalmente per 24 mattino alle 7:15 di domani da Irene Zerbini. Non mi resta che augurarvi una radiosa giornata.